Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. I miei carmi son prole delle foreste, altri dell'onde, altri delle arene, altri del sole, altri del vento argeste. Le mie parole sono profonde come le radici terrene, altre serene come i firmamenti, fervide come le vene degli adolescenti, ispide come i dumi confusi, nette come i cristalli del monte, tremule come le fronde del pioppo, tumide come le narici dei cavalli al galoppo, labili come i profumi diffusi, vergini come i calici appena schiusi, notturne come le rugiade dei cieli, funebri come gli asfodeli dell'Ade, pieghevoli come i salici dello stagno, tenui come i teli che fra due steli tesse il ragno. Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio sulle frequenze di Ondivago, D'Annunzio Ondivago, ormai bistrattato, ritenuto troppo d'annunziano, lui che era D'Annunzio. Il Vate gode di una pessima reputazione, il pettegolezzo l'ha privato anche delle costole. A 150 anni dalla nascita, lo si è ricordato al Salone del Libro di Torino 2013, l'ha fatto la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani con una mostra che ha esposto libri, documenti e lettere inedite. Abbiamo parlato con Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale e storico. Guerri ha il non facile incarico di difendere la memoria del poeta. Il programma si chiama Ondivago, un programma culturale, cerchiamo anche noi di in qualche modo parlare di D'Annunzio, per quanto mi accorga anch'io con i miei amici letterati che non sia semplice. Quando si dice vado a seguire un evento su D'Annunzio ti guardano sempre un po' con diffidenza, questa è la realtà. Il suo ruolo non è facile, come riesce a proporre D'Annunzio agli italiani? Io cerco di proporlo così come era, appunto c'è un pregiudizio su D'Annunzio, certo. Un protofascista decadente, un signore che si faceva togliere le costole per fare delle cose, tutto falso. D'Annunzio non era un fascista, era un libertario, non era un decadente, era un modernizzatore, si divertiva molto ma anche senza togliersi le costole. E quindi bisogna dare a D'Annunzio quello che è di D'Annunzio, dopodiché diventa immediatamente simpatico perché si scopre che lui ci ha anticipato su quasi tutto, la figura intellettuale, l'ecologia, l'amore per gli animali, l'atteggiamento verso la politica, una costituzione modernissima come quella che dette a Fiume, il gusto di godersi la vita e di farsela come pare a ognuno, quindi è esattamente l'eroe moderno. All'interno del salone è stata allestita una vera e propria area museale, che è anche una novità se vogliamo, con degli inediti e quella. Beh, la prima novità è che il salone è dedicato a uno scrittore, appunto D'Annunzio. La piccola ma bellissima mostra che Vittoriale ha fatto qui è omogenea al salone, si tratta di libri della biblioteca di D'Annunzio annotati da lui, con materiale di scrittura, lui era un feticista della scrittura, bottiglie d'inchiostro da un litro, eccetera. E documenti inediti di recente acquisizione. La cosa sta avendo un successo straordinario al Salone perché è come visitare un piccolo museo con dei fetici stupendi, quindi è un incoraggiamento a venire al Vittoriale e il Salone svolge ancora una volta la sua funzione di promotore della cultura. Bene, mentre il libro che sta presentando adesso, quale visione porta su D'Annunzio rispetto a quelle che avevamo prima? Cosa aggiunge agli scritti d'Annunzio? La mia vita carnale significa non solo sesso, ce n'è tantissimo, come è giusto, ma appunto il rapporto di D'Annunzio con la fisicità, lo sport, l'eleganza, il cibo, la natura, i cani e tutto quanto, e ne completa il ritratto. Soprattutto però un racconto della sua vita quotidiana al Vittoriale. Lui è circondato da donne, come un sultano, alle quali lui dice: ricordatevi che io sono un dio e che mi si deve obbedienza. Tutto questo però con una grazia e con tutte che felicemente si sottopongono a questa schiavitù. Ondivago.com